24 mattino. Sono le 8 e 15 minuti in questo istante, ben ritrovati con 24 mattino, 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure la mail 24mattino@radio24.it. È il momento di parlare di economia. Soldi e dintorni. Eccoci qui con Deborah Rosciani, ben ritrovata Deborah. Ben svegliati a tutti, buongiorno. Svegliati da un bel po'. Da un bel po' noi sì. Allora, oggi parliamo di un settore sul quale gli italiani sono molto molto attenti, quello immobiliare, no? Il mattone, esattamente. Il mattone, il solito mattone. E infatti, partiamo da un presupposto che c'è abbastanza noto in questo periodo, che i tempi siano difficili non è più una notizia. Il settore immobiliare non sembra fare eccezioni. Le compravendite di abitazioni hanno iniziato a diminuire già da un bel po', almeno già dal 2007. Adesso anche i prezzi sembrano aver imboccato la discesa. Questo però non è tutto, perché la crisi in corso ha anche un impatto sulle abitudini abitative degli italiani. Ieri a Milano è stato presentato un rapporto che ci dà la misura di questa nuova tendenza. Stiamo parlando del primo rapporto Nomisma Solo Affitti sulle locazioni. Buongiorno e grazie di essere con noi a Gualtiero Tamburini, presidente di Nomisma e Asso Immobiliare. Presidente, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. Vi leggo queste cifre. La condizione abitativa delle famiglie italiane ha subito delle profonde modifiche nel corso degli ultimi decenni. Pensate che nel 1971 il 44% circa delle abitazioni erano date in affitto alle famiglie italiane, il 51% erano di proprietà. Poi, come sapete bene, da allora la proporzione si è capovolta, la quota di abitazioni in proprietà si è ampliata, adesso ha raggiunto circa ha raggiunto circa il 71%. Adesso la situazione sembra essere predisposta ancora una volta ad un'inversione di tendenza. Presidente, è così? Cosa racconta il vostro osservatorio? Il nostro osservatorio soprattutto mette il dito sulla piaga di un mercato della casa dove l'offerta di abitazioni in locazione è molto piccola, si è prosciugata. Come osservava prima lei, leggendo quei dati, è cresciuto molto la percentuale di proprietari della prima casa, sono sempre meno le famiglie che hanno una casa in locazione, sono circa il 18% oggi, è una percentuale che è andata calando, e un mercato della locazione sottile, piccolo, costituisce un problema per il Paese, perché non dà una risposta efficiente ai lavoratori, agli studenti, alle famiglie a basso reddito. Quindi il tema di politica di settore è un po' quello del cercare quali strumenti possono ripristinare l'interesse degli investitori verso la casa in locazione. Perché sono queste le fasce sociali che cercano la casa in locazione, la casa in affitto, quindi fasce di reddito basse, studenti e lavoratori che lavorano fuori dalla propria evidentemente città d'origine. Sì, diciamo, queste sono le principali. È molto importante la quota dei lavoratori già oggi. Tenga conto che le abitazioni in affitto oggi in Italia sono circa 4 milioni e mezzo, molte meno di quelle che sono offerte in paesi comparabili al nostro, e di questi 4 milioni e mezzo, secondo la rilevazione che noi abbiamo fatto in questi giorni, una parte molto consistente va anche in locazione a lavoratori e studenti, oltre naturalmente alle locazioni temporanee per motivi turistici e così via. Ecco, la ripresa La prima casa oggi viene soprattutto soddisfatta attraverso l'acquisto. Poi c'è il problema delle fasce di reddito basse, di quelle che non hanno la capacità economica né per comprare casa né per pagare un affitto di mercato. E lì il tema è quello di come lo Stato riesce a sostenere. È un altro problema. Ecco, però, per quello che riguarda la situazione che sta modificandosi e l'impatto della crisi in corso, in ogni caso voi rilevate anche se avete individuato le consuete fasce sociali che cercano la casa in affitto, forse la situazione si sta modificando anche da questo punto di vista. Forse chi magari 2 anni fa avrebbe potuto permettersela, adesso l'accesso al credito è diventato più difficile, anche se i prezzi stanno scendendo, per cui l'acquisto della casa è una questione che va pensata attentamente in questo momento. Forse qualcuno sceglie ancora l'affitto? C'è meno pressione dal lato della domanda per l'acquisto della casa. Ovviamente il credito è più oneroso, l'incertezza è forte. L'incertezza poi agisce nei due sensi, perché L'incertezza fa anche sì che oggi ci sia una componente della domanda di acquisto di abitazioni sul lusso, ma non solo sul lusso, dettato dall'esigenza che hanno le famiglie di mettere al sicuro i loro risparmi, quindi la funzione classica del mattone, di tesaurizzare il risparmio. Comunque, in ogni caso, la domanda di prime case è calata, noi stimiamo che sia calata di circa il 20%, così come è calato di circa il 20% l'erogazione di credito che va a sostenere l'acquisto di queste abitazioni. Allora, di fronte a un mercato meno facilmente accessibile, tenendo peraltro conto che sono poi le famiglie con un reddito meno elevato quelle che oggi vanno alla ricerca della casa, perché le famiglie a reddito più elevato negli anni scorsi, quelli del boom dell'acquisto di case, sono intervenute direttamente, hanno provveduto ad acquistare casa. Mm-hmm. Allora, oggi noi abbiamo che sul mercato della locazione, siccome è più difficile rivolgersi al mercato dell'acquisto, chi non riesce a rivolgersi all'acquisto ovviamente si sposta sulla locazione. Quello che abbiamo rilevato è che, pur in una situazione congiunturale, diciamo, problematica come quella attuale di crisi, la offerta di abitazioni in locazione tende leggermente a calare e per contro tende a crescere la domanda di abitazioni in locazione, tant'è che abbiamo registrato una certa tendenza alla riduzione dei canoni. Esatto. Alla rialzo, mi sta dicendo? Al rialzo del tasso di rendimento. Ah, ecco. Quindi i canoni, se andiamo, come dire, ad affrontare invece l'aspetto dei prezzi, affittare una casa non è che sia sempre molto più conveniente del sostenere un mutuo. È chiaro che la differenza sta nello sforzo finanziario iniziale, però se dovessimo dare invece qualche indicazione sui prezzi, i prezzi delle le locazioni, insomma, stanno scendendo, Presidente, oppure ancora c'è un po' di rigidità da questo punto di vista? Senza andare a vedere al margine variazioni piccolissime, sostanzialmente restano stabili, diciamo, quello che possiamo dire. E quello che noi abbiamo rilevato in questa indagine, che ha messo in luce il canone di locazione abitazioni di piccola dimensione dei bilocali in Lombardia, abbiamo una media del canone di locazione per abitazioni di questo tipo che è attorno ai 600-700 euro. Con differenze naturalmente mano a mano che si passa dalle città di più piccola dimensione verso quelle di dimensione più grande. Questa è una domanda molto generale e chiaramente possiamo dare una risposta estremamente generica, ed è una risposta che chiaramente dipende anche dalla specifica ed individuale situazione economica nella quale un nucleo familiare si può trovare. Però, insomma, lei che conosce molto bene anche la situazione italiana, perché Nomisma pubblica periodicamente dei rapporti sull'andamento del comparto immobiliare nel nostro paese, sull'andamento dei prezzi, quello che succede anche nelle cosiddette 13 città intermedie che voi monitorate costantemente. Alla luce di quello che sta succedendo, alla luce dello scenario finanziario ed economico, dove è più conveniente, secondo lei, in questo momento affittare o imbarcarsi in un'operazione d'acquisto? Cioè, dove sono le città dove la situazione sta cambiando abbastanza nettamente? Ma, guardi, allora noi abbiamo città che esercitano una funzione di attrazione per quello che riguarda l'offerta di posti di lavoro, sono le grandi città del nord, quelle che hanno un'economia che più attiva, che funziona meglio, dove il mercato della locazione è molto piccolo e dove quindi i canoni sono elevati. Conviene naturalmente affittare dove uno ha il posto di lavoro o dove uno va a studiare, quindi non è che si possa parlare in assoluto di dove conviene affittare. Il canone di locazione possono essere molto bassi là dove c'è poca domanda, dove appunto non c'è per esempio la pressione della domanda di studenti e di lavoratori, mentre per contro, dove la pressione è forte, diciamo Milano, Roma, le grandi città in generale, i canoni di locazione sono molto elevati, ma sono anche molto elevati i prezzi, tant'è che oggi c'è una tendenza della domanda, diciamo quella con reddito meno elevato, a spostarsi sempre più verso la periferia. Abbiamo avuto la fase nella quale, diciamo, la domanda si spostava verso la prima cintura delle grandi città, ormai una parte molto costretta della domanda arriva fino alla seconda, terza cintura. Pensiamo per esempio anche alla domanda degli immigrati che, diciamo, affluiscono sul nostro mercato del lavoro e magari si sobbarcano dei trasferimenti molto onerosi in termini di tempo per trasferirsi dal luogo dove trovano la casa a basso costo, lontana dal luogo in cui hanno trovato il lavoro, e magari questo tipo di domanda di case in locazione, che è anche però in parte una domanda di case in acquisto, come dire, va a concentrarsi sulle abitazioni meno pregiate di minore qualità, quelle che gli italiani abbandonano. Certo. È un po' ciò che è successo nel mercato del lavoro. I lavori che gli italiani non volevano più fare sono stati occupati dai lavoratori stranieri, le case che gli italiani non vogliono più abitare vengono occupate. E chissà che questa nuova situazione economica non dia invece qualche spinta ad un nuovo cambiamento anche in questi aspetti, appunto, che lei sottolineava. Presidente, ci rimane poco tempo, ci dia qualche suggerimento per concludere. Questa è l'ultima domanda che faccio in genere su qualsiasi argomento a tutti i nostri ospiti del mattino. Non possiamo comprare casa, dobbiamo andare in affitto in questo momento. Ci dà qualche dritta per poter intavolare una trattativa utile con il proprietario? Senta, in questo momento dicevamo che la domanda è più rarefatta sul mercato della compravendita, ad esempio, lo diceva lei prima, i prezzi mostrano qua e là dei segnali di cedimento, e anche questo significa allora che comincia a essere il momento di, per chi è liquido, per chi ha la possibilità di acquistare, di andare a caccia di buone occasioni, e naturalmente per trovarle bisogna come dire, fare un'azione di monitoraggio sul territorio. Ma diciamo oggi queste possibilità si presentano più facilmente che in altri momenti. Benissimo, grazie a Gualtiero Tamburini, presidente di Nomisma e Assomobiliare, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. A presto, Alessandro. Tu, Deborah, prendi multe quando guidi? No. Sì. Mi è capitato qualche volta, però non ne prendo moltissime, devo dire la verità. Al semaforo, faccio, fammi pensare, no, divieti di sosta purtroppo. No, perché tra poco parleremo della mega truffa presunta dei semafori T-Red. Prima di salutarti però, alle 12 che fai oggi? Salva Danai, io torno su un tema di risparmio e di investimento. Oggi cerchiamo di capire quali sono tutte le ragioni che stanno dietro ai grandi movimenti delle valute in questo periodo, la sterlina che crolla, l'euro contro tutti e quant'altro. Bene. Grazie. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:32 minuti, uno sguardo alle ultime notizie. Il presidente americano Obama attacca Wall Street e definisce vergognosi i bonus distribuiti nel 2008 ai super manager della finanza americana, 18,4 miliardi di dollari. Poi firma la prima legge pari opportunità sul lavoro tra uomini e donne. E da Davos il ministro dell'economia Tremonti parla di maggiore pulizia e più regole per fronteggiare la crisi. Tremonti ha anche parlato dell'urgenza nel nostro paese di riforme strutturali su welfare e pensioni. In maltempo al sud, il capo della protezione civile Bertolaso chiederà oggi al Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza per i danni subiti dalla Calabria per il maltempo. Sistema viario in ginocchio, frane, sgomberi e tanti danni. Queste le conseguenze di giorni di pioggia ininterrotta. Infine una notizia di tennis. Serena Williams va in finale negli Open d'Australia a Melbourne e diventa la sportiva più ricca al mondo con quasi 23 milioni di dollari guadagnati. È il momento, come di consueto, del commento del direttore del Sole 24 Ore, oggi dedicato all'asta dei titoli di Stato di ieri. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Qualche buona notizia ogni tanto c'è. Nell'asta di ieri il rendimento dei BTP con scadenza a 3 anni è sceso al 2,8% lordo, cioè al 2,25% netto, mentre per i 10 anni è leggermente salito al 4,62%, ovvero il 3,99% netto. I risparmiatori continuano ad avere fiducia nei titoli di Stato e anche gli investitori esteri mostrano di gradirli. Il Tesoro può tirare un sospiro di sollievo, anche se quest'anno dovrà finanziare ben 200 miliardi di titoli in scadenza, con una concorrenza sul mercato di paesi più solidi, improvvisamente impegnati ad emettere titoli per far fronte agli aiuti statali a banche e imprese in difficoltà. È importante notare che ieri lo spread, ovvero la differenza nei rendimenti fra i BTP e i Bund tedeschi, è scesa da 170 a 140 punti base. Questo vuol dire che il mercato ha fiducia nella solvibilità del nostro paese. In un momento in cui tutti corrono a indebitarsi, la montagna del nostro debito pubblico, che equivale al 105% del prodotto interno lordo, cioè della ricchezza che creiamo ogni anno, fa meno paura, specie se teniamo conto che il nostro debito privato è assai più basso della media europea e infinitamente inferiore a quella americana. Le formiche, le nostre famiglie, ogni tanto qualche soddisfazione se la prendono. Buona giornata. Le 8:35, grazie a Ferruccio De Bortoli, che troveremo ovviamente lunedì mattina. Per i vostri messaggi 349-238-6666, siete in macchina? E magari vi state avvicinando a un semaforo? Beh, innanzitutto il consiglio è il solito: se scatta il giallo, fermatevi. Parliamo appunto di semafori. È la notizia che è su oggi su tutti i giornali: la presunta grande truffa che sarebbe stata scoperta dalla Procura di Verona per quel che riguarda i cosiddetti T-RED, i semafori intelligenti, quelli che vedono insomma chi passa col rosso e scatta la multa da 138 euro. Da ieri sono stati disattivati in tutta Italia, perché per la magistratura di Verona sono appunto una mega truffa, oggetti diabolici tarati ad arte per fare più multe e fare casse, e far fare cassa ai comuni. È stato arrestato l'inventore. Sono state coinvolte tantissime amministrazioni, 109 indagati, moltissimi sono comandanti dei vigili urbani, moltissimi comuni coinvolti, 64, 35 in Lombardia, c'è tutto l'elenco sui giornali, ma in Piemonte, Veneto, poi magari se ce lo chiedete ve lo mettiamo anche a disposizione. Insomma, una mega truffa presunta ai danni dei cittadini. Voglio salutare Mario Zampedri, buongiorno. Buongiorno. Lei è il vicepresidente. Buongiorno, vicepresidente del Consiglio Provinciale di Verona. Sì. Lei quando ieri ha letto questa notizia, l'ha saputa, che ha fatto? Ma guardi, io ho immediatamente aperto una bottiglia, ne ho bevuto un goccio, ma la notizia meritava appunto di festeggiare. Uno stappo di bottiglia, perché lei, vogliamo spiegarlo, si è messo a capo anche di un movimento così definito su internet di resistenza civile nei confronti di questo. Sì, diciamo che la mia fortuna è che io, diciamo, ho una buona esperienza amministrativa, non ho un comitato vero e proprio, sono andato avanti da solo appoggiandomi a molte persone di buon senso che mi hanno supportato e aiutato. Sono partito perché chiaramente quando hanno installato e attivato queste attrezzature, evidentemente erano migliaia le persone multate e c'è stata un'insurrezione della popolazione. Io ho cominciato ad informarmi, vedere cosa c'era sotto e così. Dopo ho avuto la fortuna, e per questo ho anche ringraziato il comandante dei carabinieri, sì, della polizia locale, che hanno multato anche me. Ah, una bella. Perché dice una fortuna? Perché lì ha capito. È stata una fortuna perché mi hanno messo nelle condizioni di poter chiedere all'Unione Comuni tutta la documentazione che mi era necessaria per portare avanti le mie battaglie, altrimenti potevano anche rifiutarsi di darmi, non ero persona interessata. Certo. E quindi una multa che mi hanno aperto le porte per avere tutta la documentazione che mi era necessaria, e questa è stata una grande fortuna per me. Perché da lì insomma è nato questo movimento, si può dire, nel senso che ha raccolto tantissime proteste, ha portato avanti questa battaglia che, ripeto, coinvolge 69 comuni, cioè l'accusa è quella di avere tarato anche in maniera da far lievitare il numero delle multe. Pare che siano cresciute del 300% con questi nuovi T-RED laddove ci sono, e quindi fare cassa nei comuni. Tra l'altro io voglio salutare Roberto Franzini, che è il comandante della Polizia Municipale di Lerici, in provincia di La Spezia. Buongiorno comandante. Buongiorno, saluto. Senta, oggi lei sta vivendo un momento di notorietà, perché nelle pieghe di questa inchiesta lei è individuato come il comandante forse della Polizia Municipale di Lerici che si è accorto che qualcosa non andava e ha detto: attenzione, qui c'è il rischio di una truffa, è così? Sì, esatto. È successo nel gennaio 2007. E come ha fatto ad accorgersene? Dunque, tanto è da premettere che a seguito della gara d'appalto di esternalizzazione dell'ufficio contravenzioni, perché purtroppo il personale del comune diminuisce sempre di più, e allora l'amministrazione ha scelto di esternalizzare l'ufficio contravenzioni per risparmiare il personale, e la ditta che ha vinto, una ditta locale che riscuote già i tributi, ha offerto come offerta tecnica la fornitura, diciamo, gratuita dei T-RED. Sì. In pratica ha portato dentro CTS, con la quale noi non abbiamo mai avuto nessun rapporto fino a un certo punto. Vabbè, CTS è la società, insomma, esatto. No, perché i minuti corrono, comandante, venga al sodo, nel senso, com'è che se ne è accorto? Cioè, sono aumentate, sì, di colpo le multe? Sarò breve, quando sono arrivati i fotogrammi erano 1439 ed erano troppi, a mio avviso, per quel tipo di semaforo e quel tipo di incrocio. Grazie alla mia collaboratrice dell'ufficio contravenzioni siamo andati a vedere i fotogrammi, abbiamo visto con la lente le graduazioni, le tacche che misurano i secondi, ci siamo accorti che i secondi erano 3 e non più 5. Dal giallo al rosso, diciamo. Cioè, allora, lei ha raccolto in un semaforo dove c'era questo T-RED 1439 violazioni, in quanto tempo? In un mese e mezzo. In un mese e mezzo, mentre prima del T-RED quante erano? Le nostre contravenzioni che facevamo giornalmente con due pattuglie erano sui 20 infrazioni. Cioè, nello stesso periodo, da 20 a 1439, sì, sì. Cioè, o passavano di lì tutti quelli che volevano violare il codice passando col rosso, oppure c'era qualcosa che non andava. No? E poi c'è stata la vicenda dell'autovelo, così in modo identico è stato tarato senza che noi lo sapessimo alla velocità di 56 km orari, e in pratica in un mese o due abbiamo ricevuto 8500 contravenzioni, e io ho archiviato sia gli autovelo che i T-RED e ho fatto un esposto al Procuratore della Repubblica. Senta, ha visto, ha letto che ci sono tantissimi comandanti anche, sì, di Polizia purtroppo. Municipale, suoi colleghi indagati, no? Purtroppo. Che dice lei? Mi dispiace perché come io non sono l'unico, ce ne sono tantissimi altri che lavorano in silenzio e tutti i giorni fanno fatica. E vedere queste cose, certo, per la categoria ci esce con le ossa rotte. Sicuramente molti saranno in buona fede, altri no, e purtroppo bisogna fare i conti con la realtà. Certo. Mario Zampedri, voglio tornare da lei in Veneto, perché la Procura di Verona indaga, da lì è partito, ma insomma c'è un'indagine. È partito a seguito di un esposto che io ho presentato nel novembre del 2007. E da lì è partita, Senta, qua hanno sequestrato i semafori ma quello che leggiamo sui giornali. Lei è stato anche sindaco, è stato sindaco, sì, a Tregnago in provincia, sì, di Verona, sì. Senta, l'accusa è che molti amministratori in combutta con la polizia municipale, poi si vedrà, queste siamo, certo, le accuse, facevano questo per fare cassa, insomma, per prendere soldi con le multe. Lei, da ex sindaco, da attuale amministratore, che pensa di questa tendenza? Vi hanno tolto anche l'ICI, quindi insomma. Quella di aver tolto l'ICI è anche vero, però non è del tutto così, perché per esempio nel mio paese hanno tolto l'ICI, però dopo il governo restituisce le somme grosso modo. Sì, ma era per fare una battuta, per dire che insomma... Io credo, le dico una mia esperienza, io ho fatto il sindaco, quando sono entrato a fare il sindaco il mio acquedotto perdeva 15 litri di acqua al secondo. Durante il mio mandato ho ridotto le perdite a 3 litri, questo vuol dire risparmiare oltre 100 milioni, allora c'erano le lire, oltre 100 milioni all'anno. Queste sono le cose che deve fare un sindaco, no? Cioè non dare le multe, non fare il modo di... No. Le multe vanno fatte quando uno è responsabile, io non sono qua a difendere tutti, io dico se uno passa col rosso non bisogna limitarsi a ritirargli i 6 punti della patente, bisogna ritirargli la patente, col rosso non si può, non si deve assolutamente passare, però non è possibile mettere delle trappole lungo le strade per fare in modo che un cittadino non sia in grado di passare senza prendere la multa, tanto per incassare i soldi. Questo è, oltre che illegale, è anche immorale e indegno di un pubblico amministratore. Senta, comandante Franzini, che succede ora? Secondo lei gli italiani che hanno preso le multe, che ne so, nei comuni di, per citare qualcuno, Stezzano, Bulciago, Montevecchia, Livraga, Concesio, Albavilla, Alzate Brianza, Centallo, sì, Gaglianico, Invorio, Gozzano, Guadaveneta, Vittorio Veneto, Villorba, sì, sì, sono 69, insomma, che, sì, che succede? Possono fare ricorso, mega ricorsi, tutto annullato? Guardi, io, per quanto mi compete, ho già dato disposizioni di restituire il denaro ai 729 contraventori che realmente avevano fatto l'infrazione, però mancando l'omologazione automaticamente diventano illegittimo. A mio parere è doveroso restituire il maltolto, non solo per dovere ma anche per etica. Non dobbiamo aspettare che sia il giudice di pace o la magistratura a dirci che dobbiamo restituire. Anche perché uno deve pagare per andare dal giudice di pace. Dobbiamo essere noi, riconoscere quello che è la realtà e restituire quello che... deve essere restituito. Certo, certo. E, tra l'altro ci scrivono gli ascoltatori via SMS, qualcuno ci chiede in provincia di Treviso. In provincia di Treviso io vedo Vittorio Veneto, Villorba, Mogliano Veneto, questi tre, forse me ne sono perso. No, dovrebbe essere. Comunque 69 comuni coinvolti, coinvolti non vuol dire che gli amministratori sono colpevoli. Bisognerà capire, insomma, se qualcuno l'ha messo e era consapevole che fosse un qualcosa di strano, se qualcuno l'ha messo perché era un semaforo che veniva molto commercializzato, era comodo. Ci sarà un'indagine, certo che è un'indagine che coinvolge decine e decine di migliaia di multe e decine e decine di migliaia dunque di italiani. Ringrazio sia il comandante della Polizia Municipale di Lerici, colui che ha denunciato, ha detto qua c'era qualcosa di strano e ha preso tutto, è andato in procura, e così come Mario Zampedri, vicepresidente del Consiglio Provinciale di Verona, da cui è partito tutto. Allora, io poi so che succedeva così, rispondo ad alcuni messaggi. Buccinasco è nell'elenco? No, non lo vedo nell'elenco. Montignoso in provincia di Massa? No, no, in Toscana non ce n'è nessuno. Però insomma, compratevi un giornale qualsiasi e vedetevi l'elenco dei 69 comuni, se no non finiamo più. Allora, per parlare dell'ultima parte di 24 Mattino, forse avete sentito spesso questo termine, impatto zero sull'ambiente, no? Si tratta di applicare i principi di Kyoto, per cui io, molto in soldoni, compio un'attività, faccio un'attività che inquina, cosa faccio? Per compensare acquisto delle quote che annullino il mio impatto sull'ambiente. Così ha pensato di fare la provincia di Modena, che ha fatto un'attività per cui, sì, un'attività inquinante, e allora che ha detto: noi compriamo un pezzo di foresta tropicale in Costa Rica e così annulliamo il nostro impatto ambientale e siamo pari e patta, impatto zero. E no, è arrivata la Corte dei Conti a dire: cara provincia di Modena, cari amministratori, l'aria magari sarà più pura, ma sarà più pura in Costa Rica, e dunque a Modena questi vantaggi i cittadini modenesi non li vedono. Ora, non mi interessa sapere come andrà, la provincia di Modena si sta difendendo, la Corte dei Conti attacca, quella è una vicenda, però il concetto è interessante. Professor Battaglia, buongiorno. Buongiorno. Franco Battaglia insegna chimica dell'ambiente proprio a Modena, è uno che non le manda a dire appena sente, appena vede il colore verde, possiamo dire così. Professor Battaglia, che ne pensa del concetto di impatto zero? Cioè, io inquino e quindi vado in Costa Rica e compro un pezzo di foresta. Bisogna, dunque, io devo dire che l'ambiente è una questione scientifica, quindi non è che il verde mi fa antipatia, se verde significa protezione dell'ambiente. Purtroppo la protezione dell'ambiente non si fa in questi modi. Io vedo che denaro pubblico viene sperperato con l'acquisto di un pezzo di foresta in Costa Rica, pensando così di compensare un presunto inquinamento, peraltro c'è da dire, di attività umane svolte qui a Modena. È una pura illusione, sono tutte i risultati, le conseguenze di quel famigerato e disgraziato protocollo di Kyoto, che ha un solo effetto, quello di trasferire denaro dalle tasche di molti a quelle di pochi, con vari progetti, questo è uno di quelli, così come quelli di installazione di turbine eoliche, di tetti fotovoltaici, sì, che non hanno alcun beneficio ambientale, e però appunto impoveriscono. No, lei dice che quando vedo verde non mi arrabbio, però insomma, come sappiamo, è sempre molto battagliero anche in quello che ci ha detto. C'è anche con noi Andrea Seminara, che è direttore marketing di Azero CO2, che si occupa proprio di questo. Ma allora, Seminara, buongiorno. Ma andare in Costa Rica e comprare un pezzo di foresta per compensare l'impatto ambientale è un principio che vale? Vale in assoluto, oppure giustamente dico, se lo compri, non so, facciano qualcosa che favorisca l'azzeramento dell'impatto a Modena? Ma allora, io naturalmente non entro nel merito della questione Modena Corte dei Conti, non mi permetto. No, ma per carità, se la vedranno lì. Loro nella... Allora, il concetto è molto semplice. Il protocollo di Kyoto ha chiaramente dato una serie di possibilità per abbattere le emissioni di CO2, e credo che la provincia di Modena si sia mossa in questo senso. Il punto è che probabilmente l'abbattimento delle emissioni di CO2 deve venire come ultima, diciamo, come ultima ratio rispetto a una riduzione reale dei consumi e dell'inquinamento. Noi come 02 abbiamo un percorso, per esempio, molto, molto serrato, che prima parte da una riduzione dei consumi, quindi non inquino quanto voglio, come diceva giustamente lei, ma cerco di inquinare il meno possibile, quindi prendo Riguarda lo stile di vita, riguarda lo stile di vita, ma anche le scelte strategiche, le scelte politiche di come si vogliono fare, di come si vogliono fare gli interventi. Ma laddove inquino perché faccio un'attività, come il principio di impattare a livello zero? Ma lì dove inquino io, ripeto, prima devo ridurre al massimo le mie emissioni, dopodiché io posso compensare, perché me lo dice il protocollo di Kyoto, quindi non faccio una cosa illegale, posso compensare queste emissioni attraverso o l'acquisto di crediti di CO2 o la forestazione. Ora, noi come A0 CO2 abbiamo scelto di fare la forestazione in Italia il più vicino possibile dove avviene l'inquinamento, proprio perché crediamo che almeno è lì, una tangibilità, una tracciabilità dell'intervento possa essere un valore aggiunto a favore della sostenibilità. Professor Battaglia, lei che sta a Modena, tra l'altro insegna proprio a Modena, a sapere che in Costa Rica stanno un po' meglio grazie a un'attività e hanno due piante in più, le dà così fastidio? Ma non è vero che stanno meglio, stiamo peggio noi senza che loro stiano meglio. L'errore che si fa è ritenere che la CO2 inquini. La CO2 non è un inquinante, è il cibo degli alberi, quindi la forestazione si fa appunto grazie alla CO2, quindi non si capisce qui di che cosa si sta parlando. Sembrano tutte queste attività del tipo di quelle di chi fa una buca di giorno e la copre di notte, quindi non, io proprio da un punto di vista scientifico non capisco di che si sta parlando. Il problema reale è il protocollo di Kyoto, che è una cosa che non doveva mai essere partorita da nessuno. Va bene, io qui vi fermo e vi ringrazio. Insomma, ci chiedono ancora Melendugno in provincia di Lecce nell'elenco. No, tra l'altro tutti del centro-nord, dall'Umbria, ma due in Umbria, poi tutti in Lombardia, Veneto, quindi in provincia di Lecce Melendugno. Freni ai semafori quando è rosso, non passi col rosso, caro ascoltatore, però insomma stia tranquillo, insomma non ci sono il T-Red, che peraltro non ci sono più in tutta Italia, sono stati subito tolti perché considerati un presunto mega truffa. Ci fermiamo qui. Alessandro Marcotulli e Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Come di consueto, tra poco Giuliano Ferrara, 800 24 00 24 per chiamare. Si parla oggi della legge elettorale alle europee, la discussione di porre lo sbarramento al 4% e i partitini. Ciao. E allora noi ci sentiamo lunedì mattina. Ricordo la mail 24 mattino @radio24.it.